Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, il 26 febbraio apre a Conegliano Veneto la mostra Cima da Conegliano, poeta del paesaggio, una mostra che durerà fino al 2 giugno, si svolge a Palazzo Sarcinelli ed è dedicata a questo grande protagonista della pittura veneta del Rinascimento. Il catalogo è edito da Marsilio ed è curato da Giovanni Carlo Federico Villa. Vi ricordo che a poche decine di chilometri di distanza è in corso l'altra grande mostra dedicata a un pittore veneto di straordinaria importanza, cioè il Giorgione. E in questa occasione vi segnalo il libro di Paolo Maurensig, La tempesta, il mistero di Giorgione, pubblicato da Morganti, 204 pagine, 19 euro. Protagonista del libro non è il pittore Giorgione, ma uno dei suoi quadri più celebri, forse il più celebre, cioè La tempesta, che potete ammirare alla Galleria dell'Accademia di Venezia e che tormenta nel libro due diverse generazioni di giorgioneschi. Alla generazione più anziana appartiene Henry James, il grande scrittore americano, sulle cui tracce nel romanzo si pone un suo collega, sempre americano, a noi contemporaneo, che si trova nella città lagunare per una sceneggiatura e partecipa a ricostruire i travagli e le passioni dello scrittore, di cui verrà rifatta praticamente ex novo una novella che era centrata appunto su Giorgione. E qui veniamo appunto alla seconda generazione, fatta dello scrittore contemporaneo, di una sua fidanzata e degli amici che partecipano a un club giorgionesco e cercano di scoprire quali sono i misteri, addentrandosi in una teoria su quelli che sono stati i significati reconditi delle pitture del Giorgione. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Paolo Maurensig. Buongiorno. Nel suo libro, come è nata questa associazione tra Henry James e Giorgione? È stato un caso particolare, perché io 5 anni fa avevo girato alcune scene. Avevo pensato di fare la regia di un film, di un cortometraggio tratto dal Carteggio Aspern, ed ero andato a Venezia appunto a girare delle scene e ho fatto anche un casting sul luogo. E in quell'occasione una persona mi ha parlato e mi ha avvicinato e mi ha detto che possedeva alcune lettere di Henry James, cioè lettere che erano appartenute al nonno e che a quel tempo faceva il libraio a Venezia. E così mi è sembrato così un caso abbastanza bizzarro, ma la cosa è rimasta lì. Poi, 5 anni più tardi, proprio l'anno scorso, quando ho deciso di scrivere questo libro su Giorgione, ho pensato di utilizzare la figura di Henry James proprio come trait d'union con il passato, visto che Henry James era un grande estimatore dell'arte italiana, che poi aveva abitato per parecchi anni, anche per lunghi periodi a Venezia. E così sono andato poi a vedere che cosa mai aveva scritto Henry James su Giorgione, però non ho trovato quasi nulla. E associando sul web Giorgione a Henry James è saltato fuori il Carteggio Aspern, cioè questo piccolo saggio di questo studioso inglese, il quale asserisce che nel Carteggio Aspern è criptata la figura del Giorgione. E tutto questo mi è sembrato un caso particolarmente felice, per cui ho abbinato, diciamo, i due personaggi. Lei, o meglio un suo personaggio, offre nel libro una lettura simbolica della tempesta di Giorgione, ci hanno provato in molti. Sì. Nell'interpretazione di questo libro scrive l'autore, cioè lei, il mistero e la forza dell'opera d'arte. Ecco, come si applicano queste parole al quadro del Giorgione? Ah, il Giorgione è sicuramente il suo quadro più misterioso, più emblematico, misterioso, ed è disseminato proprio di simboli, certi molto anche ben celati. E tutto questo mi è venuto dalla prolungata osservazione del quadro e da alcune riflessioni fatte in merito, ecco, che poi si ritrovano appunto nel libro, come ad esempio la figura femminile che può essere racchiusa in un cerchio perfetto, no? Quasi la figura di una donna vitruviana in questo caso, oppure l'indice puntato sul ginocchio e così via. Tutti simboli esoterici. Ecco, infatti lei scrive: la tempesta è creazione in atto di cui noi siamo attivamente partecipi. Allora, che consigli dà ai lettori per guardare a questo quadro? Per guardare questo quadro naturalmente bisogna perderci un po' di tempo, e non so quanto tempo possa avere un turista che si reca all'Accademia. Però anche le riproduzioni fotografiche a volte possono servire in questo caso, soprattutto se sono ben riprodotte. Cioè bisogna, come dire, innanzitutto cercare di lasciar trasmettere al quadro quello che vuole trasmettere, e poi andare alla ricerca di questi simboli, grazie diciamo anche alla scoperta o anche all'interpretazione di tanti studiosi, in questo caso non soltanto diciamo delle mie intuizioni, e cercare, come dire, di captare questi messaggi che sono nascosti. Naturalmente questo diventa abbastanza difficile, diventa difficile perché si finisce poi per non godere della bellezza del quadro. Questo tra l'altro non è l'unico quadro misterioso di Giorgione. No, non è l'unico quadro, ma sembra un po' il compendio di tutti gli altri, forse anche perché è l'ultimo suo quadro. Credo che racchiuda probabilmente, come dire, un compendio proprio di tutto ciò che lui ha dipinto in passato. Grazie a Paolo Maurensic, buona domenica. Grazie a lei. Il terzo grande appuntamento artistico è quello che Bassano del Grappa dedica al suo grande concittadino Jacopo Bassano, in occasione anche qua del centenario della nascita. Bassano nacque fra il 1510 e il 1512, morì poi nel 1592, visse quasi sempre nella sua città, e la sua città gli dedica al Museo Civico questa mostra curata da Alessandro Ballarin e Giuliana Ericani, che inizia il 6 marzo e si concluderà il 13 giugno. Il catalogo della mostra è edito da Elekta. E adesso torniamo a Venezia con un altro romanzo storico ambientato nella Repubblica Eroica, che sta diventando, proprio negli anni in cui si svolge questo libro, ricca e potente sul mare. L'autore è Francesco Ongaro, Memorie di un cartografo veneziano, è pubblicato da Corbaccio, 340 pagine, 18,60 euro. Il protagonista è Sebastiano Caboto, siamo dunque tra il 1400 e il 1500, quando ci si impegna non solo a conquistare nuove terre, come fece lo stesso Caboto, ma anche a perfezionare le conoscenze geografiche e la redazione di carte nautiche che potessero essere affidabili per le imprese che andavano compiendo questi grandi esploratori. Caboto inizia a navigare col padre, la famiglia poi si trasferirà a Bristol fino a lanciarsi nell'avventura di raggiungere le Indie da ponente, come da poco aveva fatto Cristoforo Colombo. Un'avventura questa che naturalmente ridisegnerà i confini del mondo, quei confini che proprio Caboto contribuisce a ridisegnare anche graficamente. Sentiamo per esempio dal libro alcune righe sul modo di lavorare di Caboto e sul problema che si poneva di rendere sul piano la rotondità della terra. Certi stampatori germani m'hanno fatto commissione d'una carta del mondo di cui far commercio all'ingiro per l'Europa. Al momento si possiedono conoscenze bastevoli per dar tratteggio d'una mappa mundi, ma non quante ce ne sarebbero davvero di bisogno per lavorare con la dovuta esattezza. Ho fatto comunque accettazione, perché si tratta di lavoro ben pagato, che mi darà con poco impegno nuova rinomanza. Tolomeo sostiene che nel dare forma a una carta del mondo sia opportuno far conserva della sua interezza nelle giuste proporzioni. Ma non è certo codesta la difficoltà che più mette pensiero. L'impedimento più grave è infatti trovare la maniera di far riporto della terra su un foglio piano, perché nessuna sfera può essere appianata senza una qualche distorsione. A lungo sono stato attratto dall'idea di spartire il mondo in due emisferi in foggia di cuore, come ho veduto essere di moda in molte mappe mondi di recente fattura. In tal guisa, le terre del centro della carta sarebbero apparse nel loro giusto aspetto e nella loro scala appropriata, mentre quelle nei pressi dei bordi si sarebbero distorte come scivolando via. Alla fine, però, ho dato preferenza a una rappresentazione in forma d'ellissi, dove i meridiani e i paralleli sono a perpendicolo solo lungo l'equinozio e l'osservatore. Dal lento sminuire del loro angolo sui bordi ha il senso della rotondità della terra tutta. Per farla stare in un foglio con un'armonia che non fosse ripugnante all'occhio, ho fatto poi taglio delle regioni polari, soprattutto di quella Terra Australis di cui ancora quasi nulla si conosce, e ho dato completezza all'insieme con numerose leggende. In una di queste faccio ricordanza di mio padre e del primo viaggio che assieme compimmo di traverso all'oceano tenebroso, che tanta apprensione incuteva nell'animo di noi tutti. Vien quasi da sorridere di compatimento nel metter paragone tra quanto poco si conoscesse allora di tal genere di navigamenti e quanto adesso sia normale disporre vela in acque tanto perigliose. Paiono trascorsi evi interi. Invece, per tanto avanzamento, sono andati consumati solo poco più di 40 anni. Sempre a Venezia, ma in tutt'altre faccende affaccendate, troviamo i protagonisti del libro di Alessandro Marzo Magno, Venezia degli amanti, l'epopea dell'amore in 11 celebri storie veneziane, pubblicato da Tropea, 248 pagine, 16 euro. Queste sono storie vere, scritte con piglio giornalistico, ma con una precisa documentazione storica che riguardano protagonisti famosi, dalla coppia Bianca Cappello-Francesco I de' Medici fino a quella più recente, la grande attrice americana Julia Roberts e Lorenzo Salvan. Questa è una storia che è rimasta dai contorni misteriosi tra l'attrice e alcuni accompagnatori veneziani, il motoscafista e o la guardia del corpo, che non si capisce se abbia sostituito il precedente. E poi ci sono tanti altri protagonisti famosi che confermano con le loro storie il potere straordinariamente seduttivo di Venezia. Cambiamo genere di appuntamenti ricordando che si è chiusa ieri a Padova l'ostensione dei resti di Sant'Antonio. Ai devoti di questo santo segnalo il libro Camminare nella luce dello stesso santo, sermoni scelti per l'anno liturgico, è pubblicato dalle Paoline, 372 pagine, 29 euro. E Sant'Antonio fu un grande predicatore, era nato a Lisbona, come ricorderete, nel 1195, ma il suo nome stesso è legato a Padova, dove morì nel 1231. E questa opera che viene adesso pubblicata è un'opera che lo stesso Antonio da Padova pensò come un'opera coerente, non si tratta di una semplice raccolta dei suoi famosi sermoni, ma lui stesso cercò di dare coerenza a quest'opera, scrive infatti la curatrice Mary Melone, che la sua intenzione era quella di comporre un'opera di commento all'intera scrittura. E quindi nell'opera Sant'Antonio non trascrive i testi, ma li rielabora dando loro organicità e coerenza. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, cambiamo adesso genere e vi voglio presentare alcune raccolte di lettere tra personaggi famosi e comincio con un grande scrittore del Novecento, Václav Havel, che è stato presidente della Repubblica prima della Cecoslovacchia, poi della Repubblica Ceca, che prima era stato dissidente, vittima della repressione del regime comunista. Era stato imprigionato tra il giugno del 79 e il settembre dell'82. In questi mesi scrive alla moglie e appunto queste lettere con il titolo Lettere a Olga sono ora presentate da Santi 40, sono 484 pagine, 15 euro. Le lettere sono state tradotte da Chiara Baratella. Prima ancora che politico, come ricorderete, Havel è stato un grande scrittore e drammaturgo che scrisse alla moglie in quell'occasione molte lettere, alcune delle quali non furono recapitate alla moglie per ragioni di censura. Non sono lettere di circostanza, ma dei veri e propri testi letterari di riflessione, ancorché brevi, al quale lo stesso scrittore ha cercato di dare coerenza e omogeneità. Si tratta spesso di riflessioni particolarmente interessanti, spesso affascinante, inframmezzate poi con richieste più quotidiane come quella di poter avere dei barattoli di latta per poter conservare il tè. Havel in prigione legge e riflette, come provano queste righe che adesso vi faccio ascoltare. Sono righe di una lettera del 19 aprile del 1981 in cui Havel racconta a Olga le impressioni suscitate dalla lettura di un'opera di uno scrittore italiano, il Caput di Malaparte. Ho letto Caput di Malaparte e mi è piaciuto molto, fra l'altro, per il modo particolare in cui l'autore manipola tempo e spazio. È una sorta di anatomia della crisi della coscienza morale europea ed è ambientato in periodi differenti della guerra e in vari posti d'Europa. Mi ha sempre eccitato il mistero dello spazio e del tempo. Mi è venuto in mente che una delle mie vecchie raccolte di poesie, scritta all'incirca 26 anni fa, si intitolava Spazi e tempi. Non ha mai smesso di interessarmi da allora, fino all'albergo di montagna. Con la libera manipolazione dello spazio e del tempo, si è in grado di creare atmosfere, toni, connessioni, sensazioni e impressioni veramente singolari, e questo rappresenta, del resto, uno delle migliaia di esempi di come l'ordine dello spirito tenta di misurare la propria forza con l'ordine dell'essere. Un'altra testimonianza di quel clima culturale e politico è il libro Parole salvate dalle fiamme. Sono lettere e ricordi di due grandissimi autori della letteratura russa, Varlam Salamov e Boris Pasternak. Il libro è pubblicato da Archinto, 200 pagine, 16 euro, ed è curato da Luciana Montagnani. Queste sono le lettere scritte tra i due grandi scrittori tra il 1952 e il 1956. Salamov è da poco uscito dall'inferno della colima, il gulag che gli avrebbe ispirato il suo capolavoro, I racconti della colima, e va a trovare Pasternak, col quale aveva già avuto una difficoltosa, peraltro, corrispondenza. L'incontro è molto importante, Salamov ama moltissimo Pasternak e viene da lui coinvolto anche nel commento al capolavoro che Pasternak sta scrivendo, e cioè Il dottor Zivago. È un'opera questa che fa eccitare molto Salamov, che addirittura scrive a Pasternak nell'ultima lettera di questo libro di considerare Pasternak come Tolstoi. Credo proprio che lei sia la coscienza della nostra epoca, ciò che Lev Tolstoi è stato per il suo tempo. Una testimonianza della straordinaria esperienza di Varlam Salamov è il libro di cui è autore egli stesso, Alcune mie vite, documenti segreti e racconti inediti, curato da Francesco Bigazzi, Sergio Rapetti e Irina Sirotinskaya, pubblicato da Mondadori, 304 pagine, 25 euro. In questo libro troviamo racchiusi in capitoli le tappe del calvario di Salamov, con tutte le scadenze anche giudiziarie, gli atti delle persecuzioni e infine le prove dei controlli ai quali continua a essere sottoposto Salamov anche dopo la sua liberazione. In uno di questi rapporti, per esempio, si fa proprio cenno alla grande passione, alla grande ammirazione che Salamov aveva per Pasternak, allora naturalmente sotto la cura degli occhi della polizia segreta. Un altro grandissimo scrittore del Novecento, questo italiano, è Carlo Emilio Gadda, che per 30 anni ebbe un carteggio molto intenso con un grande italianista e studioso come Gianfranco Contini. E le loro lettere, scambiate fra il 1934 e il 1963, sono pubblicate da Garzanti, anzi ripubblicate, ma in questa nuova versione ce ne sono 62 inedite. Il libro si intitola Contini-Gadda Carteggio ed è stato curato da Dante Isella, Gianfranco Contini e Giulio Ungarelli, 282 pagine, 25 euro. I due, Contini e Gadda, furono molto amici per oltre 40 anni e per almeno due continuano a darsi diligentemente del lei, e nelle loro reciproche confessioni consentono di scoprire molti caratteri importanti di questi due protagonisti della letteratura e della cultura italiana, anche della loro personalità e dei loro tic, addirittura dell'ipocondria che emerge dall'incontro forzato di Gadda, un incontro del 1958, con un giornalista del Corriere d'Informazione che farà carriera, Alberto Cavallari. Sentite alcune righe. Roma, 14 gennaio 1958. Carissimo, l'ufficiatura laureante, remunerante, mi ha accolto in una stagione di tremore interno e di dubbio. Ha terremotato le buone fondamenta della mia modestia. Mi ha rapito nel vortice dei doveri e degli alcolici, dei lampi e delle interviste. Una intervista, Corriere Informazione, 13-14 dicembre, accompagnata da mia foto un po' capponcella, vale a dire inutilmente florida, ha finito con lo scassarmi il sistema nervoso. L'ho percepita post factum, verso il 26-28 dicembre. Mi si fa fare una figura da panzini fesso, pieno di rossori e timidezze. Mentre le accensioni, alterne agli sbiancamenti, derivano da cuore strapazzato all'alcol, e la cortesia o ipercortesia verso l'intervistante, parmense entusiasta dei milanesi, tendeva a coprire la rabbia che egli mi avesse disturbato senza preavviso alle 10 di mattina, dopo aver telefonato alle 7 alla concierge, la vispa e trillante Katia, per sentirsi rispondere: «Ma non posso chiamare il professore a quest'ora». Il tutto si combinò per utilizzare un viaggio in Calabria al ritorno. Chiamò Pentolino, una macchina da caffè in rame bellissimo, con fulvi riflessi, stagnato interamente. Una napoletana con manico massiccio di bachelite nera, del costo di lire 5.500, chiamò cucchiaio da cucina, un normale e deliziosamente ornamentato cucchiaino da caffè in acciaio inossidabile, rinascente, volendo dire che non era d'argento. E poi mi chiamò ingegnere frate, e mi affibbiò una perpetua. Di uno dei curatori di questo volume, Dante Isella, un grandissimo studioso a sua volta di Gadda e della letteratura italiana, scomparso nel 2007, è uscito da poco un libretto molto significativo, Un anno degno di essere vissuto. È pubblicato da Adelphi, 158 pagine, 12 euro, nel quale Dante Isella rievoca appunto l'incontro nei mesi di esilio in Svizzera del 1943-44, l'incontro appunto con Gianfranco Contini. E questo ultimo libro di Isella parte proprio dai suoi primi passi negli studi della letteratura per diventare una sorta di guida alla formazione di quello che poi si rivelerà un grandissimo studioso della nostra letteratura. Un carteggio di natura politico-culturale è invece quello che fu scambiato tra Carlo Rosselli, il martire antifascista, e Gaetano Salvemini, il grande intellettuale antifascista anche lui. Il libro si intitola Fra le righe ed è pubblicato da Franco Angeli, curato da Elisa Signori, 334 pagine, 25 euro. Questa è una testimonianza importante che giunge da anni più lontani, siamo fra il 1925 e il 1937, l'antifascismo si dà da fare, in particolare per fondare quello che sarà il movimento di giustizia e libertà, il movimento liberal-socialista al quale Rosselli e Salvemini lavorano proprio in quegli anni, e della formazione di quel movimento questo libro è una significativa testimonianza. E a questo punto il confettino. Abbiamo lambito i temi della politica e quindi vi segnalo un libro divertente e illustrato proprio per capire i primi meccanismi della democrazia. Si intitola Il principe e la Costituzione di Stefano Bordiglioni, illustrato da Simone Frasca e pubblicato da M Edizioni, 44 pagine, 6,50 euro. Il principato di Ur scopre la democrazia reagendo ai soprusi e ai dispetti, in certi casi per la verità anche molto divertenti, del principe Rodolfo il prepotente. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi ricordo anche che la nostra trasmissione può essere sempre ascoltata in rete all'indirizzo www.radio24.it. Buona domenica a tutti e appuntamento la settimana prossima.